Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Pronti per le nostre due ore di diretta del sabato? Sono le 16:07 a Radio 24. Noi staremo insieme fino alle 18 con le due ore di RadioTube Social Village, RadioTube Social Network. Come sempre, per tenerci compagnia, il numero per i vostri sms e whatsapp è il 349-238-6666, ma ci sono anche i miei account social, @ Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Abbiamo un sacco di ospiti, dai, iniziamo subito con un po' di musica. Guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo. Dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo. Dimentichiamo noi stessi e ricominciamo. Ricominciamo a sorridere. Cercarci dal niente, ricominciamo a camminare affiancati, riavvicinati, se siamo troppo distanti, ritrovarci, se ci sentiamo persi. Che stiamo ascoltando è Dimenticarci, tratto dall'album Per essere felici di una cantante che sicuramente avete riconosciuto. Bentornata, perché mancava da un po' di tempo e sono molto contenta di darle il benvenuto, Marina Rei. Benvenuta, bentornata Marina. Ciao, ciao. Che piacere sentirti, anzi risentirti, perché ora da un po' che non ti sentivo e voglio sapere un po' con che stato d'animo affronti questa uscita e questa avventura nuova. Ma guarda, sono molto contenta in verità, anche perché sono passati 6 anni, lunghi anni in cui ho sicuramente suonato tantissimo in varie formazioni. Negli ultimi 2 anni sono stata in tour con Benvenue e nel frattempo appunto scrivevo, buttavo giù idee, però poi non mi piacevano, insomma sono stati anni in cui ho scritto e riscritto più volte perché non riuscivo a trovare la chiave e non mi piaceva quello che scrivevo, cioè non lo trovavo abbastanza soddisfacente, insomma io sono una persona abbastanza esigente, ma credevo opportuno insomma dover migliorare ancora e con questo disco insomma riuscire a dire qualcosa di più e a farlo meglio. È un ragionamento davvero da musicista vera, perché ormai sembra che il mondo discografico ti rincorra, bisogna sfornare un singolo dietro l'altro. Guarda, sì, in effetti non so, forse c'è un po' una paura di non di essere dimenticati probabilmente e non voglio entrare in questo vortice di voler esserci per forza ma senza un contenuto, quindi mi sono presa il tempo per esserci insomma nella maniera che volevo, che desideravo. L'ultimo dei ringraziamenti è a Nico per aver condiviso amorevolmente lo spazio e il tempo durante tutta la lavorazione. Ma tu non avevi un bambino piccolo? Mi sa che è cresciuto avevo, nel frattempo. Avevo, mi sa che è cresciuto. È cresciuto con me come sono cresciuta io, quindi adesso ha 18 anni e naturalmente ha le sue insomma la sua voglia di fare, ha i suoi obiettivi, fa musica, quindi è chiaro che registrando il disco a casa, scrivendo a casa, vivendo appunto lui con me, naturalmente lo spazio è quello che è, quindi siamo stati, diciamo, pazienti, amorevoli l'uno con l'altra per condividere il tempo, il momento delle registrazioni. È un po' questo il ringraziamento. Bellissimo. Io però ti devo chiedere qualcosa a proposito di una cosa che è successa questa settimana, la grande mancanza, la grande perdita di Ennio Morricone, perché per te, per la tua famiglia è stata una presenza fondamentale quella del maestro Morricone. Beh, lui è stata una presenza, diciamo sì, familiare. Mio padre ha suonato praticamente per più di 40 anni, 42, 45 anni, nelle sue colonne sonore, nella sua orchestra. Quindi io ho vissuto, diciamo, il maestro da ragazzina in maniera abbastanza incosciente, perché quando sei bambina non ti rendi conto, no? Soprattutto se vivi in una casa dove chiaramente passano sempre musicisti, ci sono solo musicisti, quindi andavo con mio padre magari durante le registrazioni eccetera, e come ho conosciuto anche altri maestri, no? Poi crescendo naturalmente ti rendi conto dell'importanza, della grandezza della persona che hai conosciuto, e ho avuto modo di collaborare con lui, tra l'altro dopo che lui aveva fatto una dichiarazione su di me davvero inaspettata, aveva ascoltato un disco, credo fosse quello, la canzone La parte migliore di me, e aveva in un'intervista dichiarato che aveva ascoltato il disco e aveva fatto degli apprezzamenti incredibili sulla mia voce, per cui ero rimasta anche abbastanza sorpresa perché non me l'aspettavo, non avevo quel tipo di confidenza, no? Se non una ragazzina che accompagnava il padre negli studi di registrazione. E quando gli proposi, appunto, gli fece ascoltare la canzone Che male c'è, che è questa canzone scritta da Riccardo Sinigalli e Valerio Mastandrea in onore di Federico Aldrovandi, e a lui piacque moltissimo, mi disse che voleva scrivere un arrangiamento per orchestra, e così fu. Dopo l'accaduto, appunto, è stata un'esperienza alla quale ho ripensato e ho sinceramente pesato con mano la fortuna che ho avuto comunque a collaborare con lui, ma comunque a conoscerlo, E a cantare diretta da lui, insomma, un'esperienza che è una delle più importanti della mia vita, naturalmente. Marina, voglio concludere con due appuntamenti. Uno, il primo di agosto a un festival al quale io voglio molto bene, che è Voci per la Libertà, Rosolina Mare, ed è un festival veramente bellissimo. E poi il 7 settembre una festa, una celebrazione, un compleannone all'Auditorium Parco della Musica. Sì, sì, sarà una festa così in cui ripercorrerò questi 25 anni dall'uscita del primo disco in italiano. Il mio desiderio è che sia una festa. Sto pensando già appunto a degli amici da coinvolgere. Sì, è un concerto importante. Bello, sono molto molto molto felice e ti auguro una buona estate, un in bocca al lupo enorme. Grazie, grazie a Marina Rei. Un abbraccio, grazie, Marina, grazie. A ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. RadioTube Social Village. Siamo pronti per il nostro spazio di I Love My Radio? Eccoci qua. Vado punto e a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi, oltre questa neve. pagine, un segno che non passa mai. Non passa mai, oh, oh, oh. Vado punto a capo, vedrai. Sta indietro, non è tutto falso, inutile, capirai. E torniamo all'appuntamento con I Love My Radio. Manca poco, si può votare fino al 31 luglio. Andate sul sito ilovemyradio.it. Ci sono le 45 canzoni da votare per i 45 anni della radio italiana. I 45 milioni di ascoltatori sono chiamati all'ordine per decidere qual è la canzone del cuore. E intanto abbiamo sentito un pezzettino di questa Sei nell'anima, che è l'omaggio dei Negramaro a una delle canzoni che peraltro abbiamo appena ascoltato in uno degli ultimi appuntamenti, canzone di Gianna Nannini. Ma adesso siamo arrivati al 2010. E cosa c'è nel 2010? Sentiamo un po'. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per... Mondo, Cesare Cremonini e Giovanotti, ovviamente ne parliamo con il nostro super esperto, l'autore del blog Suoni nell'Etere, Simone Fattore. Ciao Simone. Ciao Marta. Cremonini e Giovanotti hanno fatto il bis, eh? Esatto, con questo duetto, zitti zitti, hanno due canzoni tra le 45. Che cosa possiamo dire? Che nel 2010 questa canzone è l'unico inedito della prima raccolta di successi di Cesare Cremonini, quindi nel frattempo, insomma, lo abbiamo lasciato che faceva gli esami di maturità, nel frattempo tanti successi, è già un greatest hits. Questa canzone, tra l'altro, Cesare Cremonini l'aveva scritta per Gianni Morandi. Cioè, perché Gianni Morandi gli aveva chiesto una canzone e lui aveva scritto questo mondo. Poi l'ha ascoltata a Balo e gli ha detto: ma sei matto? Cioè, no, questa canzone la devi cantare tu perché ti rappresenta moltissimo. E quindi ha deciso di includerla in questo greatest hits, di inciderla. E in questa cosa, tra l'altro, vorrei lanciare un contest tra gli ascoltatori. Ci sono almeno tre autocitazioni di Cesare Cremonini che fanno riferimento a tre canzoni precedenti. Vediamo se qualcuno le indovina. Straordinario, adesso mi ci metto a pensare anch'io. Intanto passiamo al 2011, Fabri Fibra, Tranne te. Rap futuristico, anche se tutti ballano tranne te, e il tuo drink sembra quasi un tè, è un motivo sotto sotto c'è. C'è, tu vuoi lei, tu vuoi lei. Sì, ma lei ha già un marito che ti cerca, immagina il perché. C'è una festa, siamo in 103, 3033, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Rap futuristico. Simone, Tranne te mi sembra un po' una canzone che determina qualcosa, un cambiamento in questi 45 anni. C'è qualcosa di nuovo con Fabri Fibra? C'è qualcosa di nuovo anche nella carriera di Fabri Fibra, perché lui presenta questo brano come rap futuristico, intendendo insomma un rap minore, commerciale, va, diciamo così, ed anche autoaccusandosi, dicendo: eccoci, ci sono cascato anch'io, adesso non faccio più le cose per il mio pubblico, per lo zoccolo duro del mio pubblico, ma faccio cose per tutti, tant'è che eccola qua che rappresenta il 2011 ed anche, come dire, l'ingresso di un nuovo tipo di musica della radiofonia italiana, di tutto un mondo che era, diciamo, sommerso già da anni, ma che conquista le radio e i passaggi radiofonici, tant'è che questo brano che è incluso nell'album Controcultura è il più ascoltato del 2011 nelle radio italiane con questa base house, e pensa, era uscito l'anno prima, era uscito a novembre del 2010, ma a marzo del 2011 escono ben 5 versioni remix con diversi duetti, e questo lo spinge sulle varie radio a diventare il grande successo del 2011. Fabri Fibra, tranne te, ci sono troppe T e troppe F in questo titolo, però è difficile, è difficile. Fabri Fibra, tranne te. Andiamo a sentire cosa c'è nel 2012. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Beh, 2012, la notte a Risa, grandissimo classico, Simone. Torniamo al Festival di Sanremo e torniamo adesso, a distanza di un po' di anni, lo possiamo dire, con il vero brano con il quale Arisa avrebbe dovuto vincere il Festival di Sanremo, cosa che invece succederà qualche anno dopo con un'altra canzone con Controvento. Quell'anno arriva al Festival di Sanremo seconda dietro a Emma. Un pezzo bellissimo, un pezzo sulla fine di un amore, sulla tristezza della fine di un amore, che tra l'altro pensiamo noi così, perché siamo un po' pettegoli, anche abbastanza autobiografico, perché è scritto da Giuseppe Anastasi, che in quel momento è il compagno di Arisa, conosciuto ai tempi del CET di Mogol, dove lei era studentessa, lui aveva appena finito il corso ed era già assistente in alcune materie. Lui scrive questa canzone per lei, non sappiamo se questo è anche, come dire, l'epitaffio sulla loro storia d'amore. Insomma, è un bel modo per chiudere anche una storia. È mai bello chiudere una storia d'amore, però insomma chiuderla con una canzone così bella forse ha qualcosa di positivo. Tant'è che comunque Arisa arriva seconda al Festival di Sanremo con l'arrangiamento di Mauro Pagani, e questo è un singolo da 120.000 copie. E mi sa che invece la canzone del 2013 Sanremo l'ha vinto. Eccola qua. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. L'essenziale, Marco Mengoni, Simone. Qui Sanremo, diciamo, da grande, grande protagonista. Marco Mengoni arriva da X Factor, che aveva vinto nel 2009, degli album di grande successo nel frattempo, insomma arriva al Festival di Sanremo per la consacrazione, diciamoci la verità, e ci riesce in un modo tra l'altro molto particolare, perché secondo me quell'anno, insomma, noi c'eravamo, ce ne siamo accorti, che durante la serata delle cover, lui che canta Ciao amore, ciao di Tenco, In quel momento, insomma, un po' si accredita, no? nel panorama alto della musica italiana, tant'è che poi alla fine vince il Festival di Sanremo e lo dedica a Luigi Tenco, con grandi applausi della famiglia di Tenco, che dice, insomma, finalmente è come se Luigi avesse vinto un Festival di Sanremo. E poi, tanto per, come dire, stuzzicarti sulle varie manifestazioni canore, questo brano, il primo, credo, l'unico fino ad oggi di quelli che abbiamo affrontato, rappresenta anche l'Italia all'Eurovision Song Contest di Malmo. Ti dice qualcosa? Credo di sì. C'ero. Settimo posto, ottimo risultato. Settimo posto e comunque grande successo per questo pezzo di Roberto Casalino e Francesco De Benedettis, che vende comunque 140.000 copie e butta le via, per non parlare dell'album. Ma adesso ci tocca chiudere la cinquina, di oggi andando al 2014, Magnifico, Fedez e Francesca Michielin. Anche se poi tu è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengono. Fuori è magnifico, sì, ma tu un po' di più. Se la bellezza a due passi a portata di manicure, ma so che quando... Simone, dunque, il duetto Francesca Michielin Fedez per il 2014. Tra l'altro non è neanche il primo duetto tra Fedez e Francesca Michielin, perché l'anno precedente era uscito Cigno Nero. Questo brano però è molto particolare, adesso devi aiutarmi a non essere troppo acido, troppo cinico, perché altrimenti abbiamo poi contro 20 milioni di follower e non è bello, ma è una canzone che è dedicata alle arrampicatrici sociali, e cioè Fedez in qualche modo in questa canzone che ha scritto dice: stai con me perché sei attratta dai riflettori della ribalta, dalle luci della ribalta, e ti distrai, quando stai con me ti distrai da queste luci, insomma, puoi diventare famosa alla mia ombra. E poi sappiamo come è andata a finire, però, nel frattempo. Alla fine poi è stato Fedez a mettersi con una molto più famosa, perlomeno nel mondo, quindi alla fine ognuno ha quello che si merita. No, sto scherzando, a me i Ferragnez piacciono molto, stanno molto simpatici, lo dico sempre. Simone, sei pronto? La prossima settimana è l'ultimo appuntamento con le ultime 5 canzoni, poi magari facciamo un riassuntone, però abbiamo le ultime 5. Sembravano tante, ma le abbiamo finite in poche settimane, Simone. Sono distrutto, mi mancherete moltissimo, e tra l'altro si affronteranno i tempi moderni, e quindi comincio a sentirmi, come dire, sempre più debole sulla materia, devo dire. Meno male che è finita, perché il 2020, non so il successo del 2020, se sarei stato in grado di affrontarlo. Chissà, magari alla fine dell'anno lo decideremo insieme. Grazie a Simone Fattori, autore del blog Suoni nell'Etere. Alla prossima settimana, ciao Simone. Alla prossima settimana, ciao a tutti, grazie. Radio Tube Social Village. Damn. You let her catch you? Well, you say what you always say. Say it wasn't me. All right. Honey came in and she called me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. È uscito Hot Shot 2020, l'album che festeggia il 20° anniversario del disco di Diamante che ha rivelato in tutto il mondo Shaggy. Alcuni inediti e pezzi come questa Wasn't Me, riletti con cura, però anche con rispetto. Qualche giorno fa ci siamo collegati con la Giamaica, dove abbiamo incontrato, anche se purtroppo a distanza, proprio Shaggy, e intanto gli abbiamo chiesto come ha deciso di agire su questi brani e non solo. Well, it was really hard for me. I mean, to be honest with you, I have the biggest connection to these songs than anybody else. Beh, per me non è stato molto difficile. Sono canzoni a cui sono legatissimo e che conosco meglio di chiunque altro. Sono canzoni mie, Le ho scritte io. Potrei benissimo cantarle al contrario o in ebraico. È solo che ho visto che una nuova generazione stava emergendo e che queste canzoni erano ancora attuali nell'ambito di questa generazione. Vengono ancora suonate in radio e quindi volevo portare questa musica nel 2020 con il gusto del 2020. Stiamo avendo grande successo con il brano Banana. Quella canzone ci sta aprendo le porte a un pubblico giovanissimo, un pubblico che usa TikTok, che può così riscoprire Shaggy, che può riscoprire la nostra musica e il viaggio che la nostra musica ha affrontato. Ecco, Hot Shot 2020 è un po' come il viaggio di Shaggy. Ci sono 5 canzoni dell'album Hot Shot originale: Angel, It Wasn't Me, Love Me Love Me, Keeping It Real e Hot Shot, che hanno nuove tracce vocali, una nuova produzione. In Angel c'è Sting, in modo da avere un sapore diverso. In It Wasn't Me c'è Raivon. Abbiamo inserito anche 4 nuove canzoni. Buckingham Palace, Primavera, anche questa con Sting, Caribbean Plans ed Electric Avenue, così come alcuni pezzi classici come Mr. Bombastic o Caroline, Scent of a Woman e Hey Sexy Lady. Ci trovate anche Under the Sea, visto il successo che ha avuto con il musical della Sirenetta. E poi c'è anche una versione di Banana. Insomma, volevo che fosse una celebrazione del percorso di Shaggy. So I just wanted it to be a celebration of the journey, you know, the full journey of what Shaggy has been through. Mr. Bombastic! We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Sexy undercover. She call me Miss Bombastic, tell me fantastic, touching on me back, she says I'm Mr. Rowe. E però quando riapriamo un armadio e tiriamo fuori i vestiti di 20 anni fa, ci chiediamo se ci vanno ancora bene. Shaggy non ha dubbi. Absolutely, I'm still Mr. Bombastic. Love, love, make them know, large. Once I started to do the records and started doing the songs, I was so excited. I was like, wow, this could sound. Quando ho iniziato a lavorare al disco, a riregistrare i pezzi, ho subito pensato, wow, può venire fuori una figata. E attenzione, mi piacciono le vecchie versioni, ma amo queste nuove versioni. Ne sono innamorato. Quando metti su Hot Shot su uno stereo con casse belle potenti, ti colpisci al petto. Boom, boom, bombastic. Ed è un ascolto fantastico in questo periodo di Covid. Metti su il disco e ti sembra di essere in vacanza in un posto tropicale. Ed è perfetto per l'Europa in questo momento. It's perfect for Europe, you know, right now. Those one that kids are a nice and beautiful girl. She do like diamonds and pearls. She do bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. One big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Eh sì, la musica ci ha aiutato e ci aiuta molto in questi periodi difficili. But music is very important. I said it the other day. I said, hey, 2020 could either be the best year or the worst year. La musica è importantissima. Proprio l'altro giorno dicevo, ehi, il 2020 può essere l'anno migliore o l'anno peggiore di sempre. Il peggiore perché è iniziato terribilmente con il Covid, ma può anche essere il migliore perché, sai, ci sembra sempre di non essere abbastanza, inseguiamo sempre la perfezione. Il Covid ci ha rallentato. Prendi me, per esempio. Io vado sempre di fretta, non mi fermo un attimo. Il Covid mi ha obbligato ha obbligato tutti a rallentare e a pensare alle cose semplici della vita. Tipo annusare le rose o robe del genere e a renderci conto dei nostri successi, per quanto piccoli possano essere. E poi ovviamente c'è il movimento Black Lives Matter, che mi ha ricordato e dimostrato che le persone sono ancora in controllo. Noi siamo ancora in controllo. Noi eleggiamo i presidenti, che una volta saliti al potere dimenticano che sono lì per servire le persone, che sono stati eletti dalle persone, che sono le persone a governare, che sono le persone ad averli messi in una posizione di potere e che sono le persone a poter togliere loro quel potere. Il potere assoluto porta a corruzione. You know, because absolute power corrupts absolutely. Yeah! What a piece of dilemma! Jitterbang, oh, jitterbang! Demonic supply! Jitterbang, bang, come on, say it. But please, on the track! Jitterbang, bang, from near and far, I request me banana. Me and the girl, them banana far. Do all of them, I request me banana. They like, come on, and now I'm go home. Every one time, two time, them want more. They like, come on, and now I'm go home. E beh, ovviamente esce questo nuovo disco di Shaggy, ma per ora purtroppo niente concerti, anche se lo aspettiamo da queste parti. Questa è la cosa che fa più male ora. Mi piacerebbe tornare in tour e suonare dal vivo. Posso solo sperare e pregare che si possa tornare alla vecchia normalità nel 2021. E a quanto pare possiamo sperare nel 2021. Avremmo potuto accorciare i tempi e tornarci nel 2020, ma sai, gli americani a quanto pare non si sono comportati benissimo. E quindi, insomma, questo ci ha bloccati. Però dai, speriamo che si comportino meglio e rispettino le regole sul distanziamento, in modo da lasciarci tutto questo alle spalle. Oh, Carolina. Ricordo tutte e sto ballando e cantando come una matta, anche questo a Carolina, mi piaceva da morire. Tutte canzoni che appunto Shaggy ha rivisto, però lo sappiamo, quando ci sono delle canzoni che ricordiamo bene è difficile dare loro un vestito nuovo senza che magari qualcuno dica mi piaceva di più prima. Allora, come ha lavorato su questi pezzi che ci ricordiamo tutti così bene, che abbiamo tutti amato e che ancora amiamo molto? Well, I'll always respect the integrity of it. I don't think we strayed away from that at all. Rispetteremo sempre l'integrità di una canzone e penso che l'abbiamo fatto anche in questo caso. Abbiamo solo cercato di dare a questi pezzi un sapore diverso, adatto al 2020. Ora che tutto è digitale nella musica, dobbiamo attrarre un pubblico diverso, più giovane. Le versioni originali saranno sempre lì. Questa è un'alternativa per le generazioni più giovani, a cui piace un certo tipo di sound, simile a quello che ascoltano, e va bene così. Ascolto un sacco di nuovi artisti. Adoro Billie Eilish. Mi piace quello che molti artisti stanno facendo in ambito pop e hip hop. Ne sono attratto e ispirato, e questo è parte della mia crescita. Non puoi stare fermo lì, bloccato in una bolla temporale. Devi evolverti. Light it up, light it up, blaze it. It's a music, reggae music, as far as I can see. E questo era il nostro incontro, purtroppo solo a distanza, con Shaggy per ora, perché lo aspettiamo presto in Italia, quando potremo tornare a muoverci, a fare concerti, a fare un po' di tutto. Insomma, è uscito Hot Shot 2020, questi erano un po' di pezzi, era l'intervista che abbiamo fatto in questi giorni con Shaggy. Noi ci ritroviamo dopo la vibilità, tra poco. RadioTube Social Village. È appena arrivato sulla piattaforma Disney Plus un Fenomeno che ha investito prima gli Stati Uniti, adesso appunto grazie a questa diffusione in streaming riguarda un po' tutto il mondo. Tra poco capiamo cos'è, ma prima ascoltiamo una brevissima clip. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, daughter to your union and the hope that you provide. Intitola Hamilton, ma di cosa si tratta? Ne parliamo con un grande amico di RadioTube che è tornato con noi, Gianmaria Tammaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, l'altro giorno ci siamo scritti e mi hai detto: ah guarda, sto finendo di guardare Hamilton. E lì mi sono detta: ah, cavoli, è vero, dovremmo proprio parlare di questo Hamilton che è appena arrivato, perché io ne sentivo veramente parlare spessissimo. Ad esempio nelle serie americane c'era sempre qualche scena di qualcuno che andava a vedere Hamilton, oppure gli regalavano dei biglietti per andare a vedere Hamilton, aspettava Hamilton. Che cos'è Hamilton, Gianmaria? Allora, come dicevi tu prima, Hamilton è un musical, ha fatto il suo esordio nel 2015 a Broadway, prima sui palchi di Off-Broadway e poi è arrivato in agosto, se non sbaglio, a Broadway. Ed è la storia raccontata, cantata, ballata di Alexander Hamilton, che è uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, è stato il primo segretario del Tesoro degli Stati Uniti e ha partecipato a quella che è stata la rivoluzione americana. La cosa interessante del personaggio è che neanche gli americani lo conoscono così bene, o meglio, lo conoscevano così bene fino a, diciamo, al musical. Il musical ha avuto questa capacità straordinaria di riportare alla ribalta un personaggio di cui si sa e non si sa, anche perché è uno dei pochi padri fondatori a non essere diventato presidente degli Stati Uniti e quindi non ha avuto, diciamo, quell'attenzione lì. La cosa interessante è che questo artista, che è Lin-Manuel Miranda, ha deciso di adattare la sua vita in un musical e l'ha fatto usando il rap. Quindi ha adattato quelle che sono tutte le vicende della rivoluzione americana, le vicende della vita di Hamilton con il rap, con canzoni rappate. Ed ha un effetto incredibile, anche perché nell'adattamento, diciamo così, nelle riprese per Disney Plus, ritorna tutto quello che succede in teatro, la stessa emozione. Allora, fammi anche segnalare, così faccio una piccola parentesi, Lin-Manuel Miranda lo vediamo anche in un documentario che ho visto in questi giorni su Netflix e io sono impazzita, andatelo a vedere, il documentario Mucho Mucho Amor, la storia di Walter Mercado, andate a cercare questo documentario, non leggete niente, non dovete sapere niente prima di questa storia, andatevelo a vedere. E c'è anche Lin-Manuel Miranda a un certo punto del documentario. Lin-Manuel Miranda, Gianmaria, che è diventato un personaggio a questo punto importantissimo nella scena americana. Sì, è diventato uno dei punti di riferimento, anche perché adesso ha stretto un accordo, ha comunque firmato un contratto con Disney e sta lavorando a diversi adattamenti, per esempio sta lavorando a quello della Sirenetta, se non sbaglio. È diventato anche un volto importante del grande e del piccolo schermo, lavorando in film, in serie TV. Una cosa che in pochissimi sanno, lui tra i suoi primi lavori c'è anche una particina in Dr. House, nessuno si ricorderà di lui, ma c'era anche lui. Quindi è un personaggio che è arrivato sulla scena americana, si è imposto con la sua capacità, con la sua bravura, e addirittura Hamilton è diventato così importante, questo grande fenomeno, che è stato voluto da Obama alla Casa Bianca, e hanno cantato lì davanti al Presidente. Allora, tra l'altro vi segnalo che il 7 agosto arriverà su Disney Plus lo speciale Hamilton History as It's Eyes on You, quindi un documentario che racconta la storia della produzione di Hamilton, quindi davvero un successo enorme. Io non me l'aspettavo che potesse uscire dall'America e che se ne parlasse tanto anche da noi, perché è effettivamente molto americano, è un musical, va visto con i sottotitoli, è una parte di storia americana, eppure probabilmente le musiche e la messa in scena sono così avvincenti che ci si riesce a fare conquistare anche da uno spettacolo teatrale in streaming, che non è scontato. Sì, tra l'altro cosa interessantissima, non c'è mai stato la volontà di cedere a quello che è il linguaggio e lo streaming o comunque del video e del mettersi nella dimensione quasi bidimensionale del televisore o comunque dello schermo. Tutto quello che c'è nel musical, quindi intermezzo, la voce all'inizio che saluta il pubblico, i momenti di riorganizzazione resistono e ci sono ancora in questa versione qui, quindi è letteralmente tentativo letterale di far rivivere quell'esperienza lì al pubblico. Ci sono tante piccole storie poi che hanno aumentato e alimentato la leggenda di Hamilton che sono pazzesche. Ad esempio, dimmi. Che interpreta Giorgio, Re Giorgio. Uno dei miei personaggi preferiti, tra l'altro, ha poche canzoni, pochi momenti. I momenti che ha sono di solito con lui da solo sul palco. Ecco, lui a causa del peso della corona che indossa cammina in un certo modo, l'ha raccontato poi in alcune interviste. Una sera sono andati a vedere Hamilton, Beyoncé e il suo compagno, Jay-Z. E a un certo punto dopo lo spettacolo sono andati dietro le quinte, Beyoncé ha parlato con Groff e ha detto: ti ruberò la camminata. Se guardate il documentario Homecoming che è su Netflix di Beyoncé in concerto, vedete che proprio all'inizio Beyoncé entra in scena come Re Giorgio di Hamilton. Pazzesco, questa non la sapevo, me lo riguarderò, certo, come la costruzione di questo musical poi è diventata un punto di riferimento per tanti artisti. Devo dire che è un fenomeno di proporzioni tali, insomma, non ne ricordo altri che da Broadway possa partire un fenomeno del genere. Tra l'altro Jonathan Groff, che io amavo particolarmente perché ha fatto delle serie televisive che io... E anche il protagonista di Mindhunter, per citarne... O di Looking, che io sì. ho amato tantissimo. Allora, Disney Plus offre questo spettacolo teatrale, 2 ore e 40, non spaventatevi, il musical Hamilton, ne stanno parlando tutti, quindi vale la pena guardarlo. Grazie a Gianmaria Tammaro per essere stato con noi. Gianmaria, un abbraccio, a prestissimo. Grazie mille. Anche per l'idea di parlare di Hamilton, perché davvero è nato tutto da uno scambio di messaggi. Mi diceva: sto guardando Hamilton. Ho detto: fermiamoci, a parte devo guardarmelo anch'io. E effettivamente ho capito perché in questo periodo si parlava già da qualche tempo, magari le citazioni di Hamilton ricorrevano nelle serie TV e nei film americani. Allora è il momento di fermarci, di dare la linea al giornale radio delle 17. Io vedo Gianmaria Pieria Ceci pronta. Noi ci ritroviamo dopo il giornale radio con la seconda ora in diretta di RadioTube, quella di RadioTube Social Network, tra poco. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.